muto, non l'ha portata il vento, all'ombra di un saluto, il sonno mi ha disteso, il vino che ho bevuto non è piaciuto tanto, a chi non l'ho versato, per chi non me l'ha chiesto mai, mai. Adesso un po' paura, prima la notte era più scura ed io con lei. Questa morte, l'avventura è il suo nome. Ma dove sei venuto? Ma cosa sei fuggito tu? Così gentile, così sprovveduto.